la prima volta. A cura di Cristina Carpinelli. I nostri viaggi, i campeggi che facevamo in Val d'Aosta, sotto il Monte Bianco, e, nei quali mio fratello da bambino avrà avuto 8-9 anni, andava alla ricerca di grilli, li metteva in un barattolo per poi liberarli, perché non sopportava di vederli lì dentro. Prima aveva il divertimento di prenderli, ma poi insomma li liberava dopo un istante. Era simpatico, socievole, ovunque andavamo era comunque lui tra i due quello che ci trovava da fare amicizie, perché io invece sono sempre stata molto più timida e riservata. Quindi, come succede sempre nelle famiglie, il secondo è quello più estroverso, più rumoroso, sì, quello che racconta barzellette, che fa ridere. Esatto. E sì, Stefano era così? Era assolutamente così, da bambino e poi anche crescendo. Io, ecco, una bella sensazione, un bel ricordo legato a mio fratello è proprio questo, dei momenti in cui si stava bene e si riusciva a ridere anche per niente. Io, una cosa che non posso dimenticare è proprio la risata di mio fratello, contagiosa, e come dire, trovava sempre il modo di sdrammatizzare ogni situazione. A volte dava la sensazione di quasi essere uno che prendesse le cose troppo sotto gamba, e no, non era così, era semplicemente però il suo modo di essere, che anche nei momenti in quei momenti difficili comunque riusciva sempre a strapparti un sorriso. Vanno, vengono, ogni tanto si fermano, e quando si fermano sono nere come il corvo. Sembra che ti guardano con malocchio. Certe volte sono bianche e corrono e prendono la forma dell'airone o della pecora o di qualche altra bestia. Ma questo lo vedono meglio i bambini, che giocano a correrli dietro per tanti metri. Ilaria e Stefano, due fratelli in vacanza. Ilaria è la più grande, Stefano è il piccolo. Sono liberi, felici. Il padre è un geometra, la madre si occupa di loro, vivono a Roma. La loro è una famiglia piena di persone, nonne, zii, cugini. Una famiglia normale, la famiglia Cucchi. Siamo sempre stati una famiglia molto unita tra noi e anche tra gli altri, con gli altri membri della famiglia, per cui le sorelle di mia madre e tutti i loro figli. Siamo cresciuti insieme, una famiglia numerosissima in cui si condivideva ogni momento. Vivamo forte il senso di appartenenza, il senso della famiglia. A un certo punto, la famiglia Cucchi si trova a vivere una prima terribile volta, ed è quando in casa entra la droga. Ilaria, la sorella di Stefano, ricorda ogni particolare, il carattere che cambia, la famiglia che si dispera, si disgrega, si riunisce, il padre che accetta alla fine di non abbandonare il figlio, la rabbia prima e il bisogno di essere assieme, vicini, subito dopo. Mio fratello aveva avuto dei trascorsi di droga, momenti molto pesanti, molto dolorosi e molto faticosi per la nostra famiglia e soprattutto per lui, che aveva vissuti in prima persona. E momenti che ci hanno segnati profondamente, soprattutto i miei genitori, mio papà in particolare, che era sempre lì con lui, e veramente in ogni attimo lì a tirarlo fuori dai guai. E davvero pensavamo di esserci riusciti, pensavamo che la droga era uscita per sempre dalla nostra vita. Stefano dava segni di ripresa, aveva frequentato per un certo periodo una comunità di recupero, il CEIS, e ne era uscito da poco, cercando di riappropriarsi della sua vita come dire, con delle tecniche che poi sono proprio quelle che gli insegnano in queste realtà, ossia proprio imparare a responsabilizzarsi e confrontarsi con se stessi e col mondo esterno. Questo Stefano stava facendo, e poco dopo essere uscito dalla comunità ha espresso la volontà di andare a vivere per conto suo. Io che avevo sempre avuto l'istinto di proteggerlo, e quindi per proteggerlo intendo anche in maniera anche abbastanza ossessiva, ero sempre lì a frugare tra le sue cose non appena si distraeva, quando dormiva a casa mia ricordo, e aspettavo che lui si addormentasse e mi rialzavo dal letto e magari andavo a controllarli nel portafoglio, nello zaino, se per caso avesse nascosto qualcosa, perché avevo il terrore che potesse tornare a far uso di droghe. Beh, questo per dirle che in quel momento io, che ero sempre stata così sospettosa, mi sentivo serena. Oggi ovviamente lo dico con una vena, con un sottile senso di colpa per questo, perché magari se me ne fossi accorta sarei potuta intervenire, invece magari non sarebbe stato così. Però mi sentivo serena, mi sentivo, sì, avevo molta apprensione per mio fratello, ma soprattutto per la sua emotività, per questo suo confrontarsi con la realtà esterna, quindi ricostruirsi una vita che comporta in certe situazioni dimostrare prima di tutto a se stesso e poi agli altri di potercela fare, e non è facile quando si ha a che fare con il pregiudizio, con persone che comunque ti giudicano non per quello che sei o che sei stato o che potresti essere, ma per quello che in quel breve frangente tu hai dimostrato di essere, quindi una persona è un drogato, insomma, una persona non capace, incapace di fare qualunque cosa. Evaporato in una nuvola rossa, in una delle molte feritoie della notte, con un bisogno d'attenzione e d'amore, troppo se mi vuoi bene piangi per essere corrisposti. Valeva la pena divertirvi le serate estive con un semplicissimo mi ricordo. La prima volta. Stefano Cucchi è un geometra di 31 anni, con qualche problema di droga. Vive a Roma, è il secondo figlio di una famiglia normale. Ilaria, la sorella maggiore, è introversa, un po' timida. La prima volta che la sua vita cambia direzione ha una data precisa, è il 22 ottobre 2009. È il giorno in cui Stefano Cucchi muore, durante la custodia cautelare. Massacrato, dirà Ilaria. Massacrato nei sotterranei del tribunale. Nemmeno in cella, nei sotterranei del tribunale. E ricordo che mio fratello non era, era un detenuto in attesa di giudizio, quindi in realtà il carcere mio fratello non l'ha neanche visto, neanche c'è poi tutta una vicenda legata a questo fatto per cui mio fratello in carcere, nel carcere di Regina Celi, non si è mai entrato fisicamente, non è stato mai mandato nella sezione, come ho imparato che si chiama. Pochi mesi prima, Stefano Cucchi aveva cominciato un percorso di recupero. Ilaria ricorda bene quei momenti. E allora io apprezzavo molto questo sforzo di Stefano, che era uno sforzo tangibile, e il fatto di voler andare a vivere da solo, il fatto di costruirsi anche una propria indipendenza lavorativa, sempre comunque seguendo le orme di mio papà e quindi approfittando di quella strada che lui aveva aperto a Stefano come anche a me, però cercare di mettersi per conto proprio, ma che so io faceva, ecco, mio papà lavora come geometra e quindi anche nell'edilizia, lui stava iniziando ad andare in cerca di terreni da acquistare sui quali poi eventualmente costruire, era un'idea ancora tutta sul nascere, però ecco, ricordo che Pochi giorni prima di morire aveva commissionato dei biglietti da visita, che poi ovviamente, come sempre accade in queste cose, sono arrivati dopo la sua morte, come anche la sua macchina, quella che aveva sognato tanto, è arrivata dopo la sua morte. Tutte piccole tappe, piccoli traguardi che lui non ha potuto vedere, che però a noi lasciano la sensazione di quello che stava facendo Stefano. Quindi appunto io, che in quel momento non percepivo nessun tipo, ahimè, di segno e di segnale che comunque ci fosse di nuovo il problema droga, e dicevo un venerdì mattina la telefonata di mia madre, anzi nemmeno la telefonata, io ricordo di essere andata a casa di mia madre e averla trovata in lacrime, e non aveva chiuso occhio tutta la notte, perché quella notte mio fratello era stato a cena da loro, come quasi sempre faceva, dopo essere stato in palestra dove andava ogni giorno, e poi era uscito prima di tornare a casa sua e aveva portato la cagnetta a passeggiare nel parco, e quella sera intorno alla mezzanotte Stefano si ripresentò a casa accompagnato da carabinieri. Quindi la notizia del suo arresto, la notizia del fatto che Stefano si era cacciato nei guai. Il 15 ottobre 2009 Stefano Cucchi viene fermato dai carabinieri. Questo quanto racconterà il giorno dopo nel processo per direttissima uno dei carabinieri che lo arrestò. Ieri 15 ottobre 2009, mentre eravamo di pattuglia automontata, mentre transitavamo in via Lemonia, notavamo il Cucchi Stefano che cedeva a un'altra persona delle bustine di cellophane e riceveva una banconota di denaro. E così lo bloccavamo tempestivamente e ritrovavamo addosso 20 grammi di hashish, suddivisa in 12 pezzi, e tre bustine di presumibilmente cocaina e due pasticche di hashish e una canna già confezionata. Veniva fermata anche l'acquirente, di cui dichiarava tramite sommarie informazioni che abitualmente acquistava la sostanza stupefacente dal Cucchi Stefano. E così procedevamo all'arresto. In quel momento a me, come ai miei genitori, il mondo è assolutamente crollato addosso. E la sensazione, la prima immediata sensazione, la più forte, era quella di rabbia. Rabbia dettata dall'amore. Sono arrabbiato perché ti voglio bene, perché mi preoccupo per te. E quindi ero tanto, tanto arrabbiata. E dentro di me pensavo, per prima cosa mi autoaccusavo, mi sentivo in colpa per non essermene resa conto, e poi pensavo, beh, allora ben ti sta, ti servirà da lezione, magari questa è la volta buona che capisci che devi mettere necessariamente la testa sulle spalle. Lui in carcere non sarà mai stato, però diciamo in quel momento ancora la situazione era molto nebulosa, non si capiva bene, e i carabinieri avevano semplicemente detto a mia mamma che l'avevano trovato con delle piccole dosi di droga, che comunque necessariamente dovevano portarlo in caserma e che la mattina dopo ci sarebbe stata la direttissima. Comunque signora, non si preoccupi, perché vedrà che domani torna a casa. E mia mamma chiese ai carabinieri se doveva chiamare l'avvocato, e i carabinieri dissero non si preoccupi, è tutto a posto, tutto fatto. E invece la mattina successiva in udienza mio fratello si è ritrovato di fronte a uno sconosciuto avvocato d'ufficio, che poi sceglie di nominare di fiducia. Arriva in udienza con il volto gonfio, in udienza come sempre nei momenti in cui nei momenti difficili, chiamiamoli, c'era mio papà, e quindi mio papà assiste a questa udienza. E nel corso dell'udienza, intanto, poi questo l'abbiamo preso successivamente, Stefano è stato giudicato come un albanese senza fissa dimora, perché evidentemente i carabinieri avevano sbagliato a fornirgli le carte, e quindi di conseguenza non gli vengono dati domiciliari. Viene mandato in carcere e viene disposto il processo, che ci sarà da lì a un mese, solo che Stefano non ci arriverà mai, perché dopo 6 giorni muore al Persini. E quindi lì inizia il suo personale calvario e anche quello nostro, soprattutto dei miei genitori. Da quel momento in poi, quello diciamo il momento in cui e l'ultimo momento in cui uno di noi riesce a vedere Stefano. Da quel momento Stefano viene inghiottito dal carcere. Stefano Cucchi è epilettico, pesa 43 kg. Quando viene arrestato non ha alcun livido sul corpo e sul viso. Lo sanno bene i genitori che la sera dell'arresto lo hanno avuto a cena a casa. Dopo la prima udienza le condizioni del giovane peggiorano e viene visitato all'ospedale Fatebene Fratelli, dove vengono refertate lesioni ed ecchimosi alle gambe, al viso, inclusa una rottura della mascella, all'addome, inclusa un'emorragia alla vescica, e al torace, incluse due fratture alla colonna vertebrale. In carcere le sue condizioni peggiorano. Stefano muore il 22 ottobre del 2009. I familiari di Stefano Cucchi cercano a più riprese di vedere o perlomeno conoscere le condizioni fisiche del ragazzo, ma senza successo. La famiglia viene a sapere come sta Stefano quando un ufficiale giudiziario va a casa loro per chiedere l'autorizzazione all'autopsia. Ausência, ausência. Se asa tivesse pra voar. Questa è la prima volta di Ilaria Cucchi e della sua famiglia, una storia che diventa pubblica e che oggi è ancora in attesa di giustizia. La prima volta termina qui. Vi ringrazio per averci seguito. Torniamo domenica prossima alle 13 circa. Il programma è scaricabile dal sito di Radio 24. Il nostro indirizzo email è laprimavolta@radio24.it. Buona giornata a tutti da Cristina Carpinelli. Ma sono pensamento viaggiare semento. Mia libertà un ter e so na mia sono. Na mia sono mi è forte. Tempo proteção.